È un'iniziativa che nasce da un'idea forte rispetto al cercare di unire tutto quello che può essere chiaramente natura, e quindi un discorso anche ambientale in questo periodo in cui siamo più che mai sensibili all'argomento, con un discorso altrettanto sensibile in questo periodo che è la cultura, ovvero cercare di rimescolare questi due linguaggi, come poi è stato in passato, e di renderli una cosa unica. È un'iniziativa che nasce in collaborazione con il Parco dei Gessi Bolognesi, e che sostengono il progetto aiutandoci in qualche modo a fare scoprire alle persone. Quindi abbiamo deciso insieme degli itinerari insieme a loro, nei quali le persone possono in qualche modo sentirsi parte sia della natura che di un discorso di visioni. Abbiamo deciso di fare tutto questo al tramonto, proprio per rendere più evocative le immagini, senza l'uso di pedane, quindi senza l'uso di palchi, senza l'uso di luci, e cercando di inquinare anche da un punto di vista acustico il meno possibile. E quindi abbiamo utilizzato delle cuffie che vanno consegnate agli spettatori e con le quali potranno ascoltare quindi quello che l'accompagnamento a quello che vedranno. Abbiamo cercato di coinvolgere, oltre naturalmente alla nostra compagnia, compagnia CEC, che è una compagnia di produzione residente sul territorio bolognese, abbiamo cercato di coinvolgere altre compagnie nazionali e internazionali. Quindi ci saranno una coppia di artisti provenienti dalla Danimarca. Il prossimo evento sarà a cura di Francesca Penzo e di Roberto Penzo, ed è un lavoro padre-figlia. Stiamo cercando di in qualche modo dare diversi punti di vista su quello che può essere il linguaggio della danza, della nuova danza, quindi cercare di avvicinare a un linguaggio che solitamente è considerato complesso, complicato, arduo, difficile da comprendere da parte del pubblico, cercare di renderlo in qualche modo più vicino, e quindi semplificando anche una scelta a livello di programmazione, una scelta di spettacoli che siamo andati a definire. Speriamo che il progetto possa avere un'evoluzione. Quindi in questo momento sono solo 5 eventi al momento, quindi parte il 9 luglio e finisce il 6 agosto. L'idea è quella, dall'anno prossimo invece, di estenderlo sui 3 mesi, quindi su giugno, luglio e agosto, e di renderlo quindi un progetto anche da un punto di vista promozionale e turistico per quanto riguarda il territorio bolognese, un progetto sensibile. Quindi si parte il 9 luglio con Appeso Morto di e con Carlo Massari, e si prosegue quindi il 16 luglio con Sarai di e con Francesca Penzo e Roberto Penzo. In luglio ci saranno Fabio Liberti, Ierne, Bezak, che sono sì, una compagnia danese. Il 30 luglio Backover con la coreografia di Mattia Gandini, e il 6 agosto Granito con Francesca Antonino, Laura Chieffo e Ilaria Quaglia, collettivo Munerude. Sono quindi compagnie diverse, con diversi linguaggi e diversi percorsi anche. Ricordiamo un'ultima volta, all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi della Badessa, per i prossimi martedì dei mesi di luglio e agosto, Danzare il tramonto, visioni di danza e natura. Grazie mille Carlo. Grazie mille a voi.